Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. 102.2 di Radio San Donà, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento settimanale con il programma Overbooking, condotto da me, Alvise, ingiustificatamente, però è così. E insomma, questo programma appunto Overbooking parla di libri, ossia presenta ogni settimana un libro nuovo, ne discute le tematiche e ve ne legge qualche pezzo. Vi dirò onestamente che quando hanno proposto di far fare un programma sui libri a me, io mi sono guardato e ho detto perché io, in sostanza. Poi ho pensato un po' a come farlo e quello che la più grossa differenza che vedo tra me e qualcuno che ne sa di libri è la differenza tra un guidatore di macchina e un meccanico, in sostanza. Io leggo molti libri, quindi so guidare una macchina, ma non ne capisco molto, ossia non sono un meccanico. Quindi tutto il meglio che potrò fare è, cercherò di farlo al mio meglio soprattutto, è farvi conoscere di volta in volta un libro che è capitato di leggere a me medesimo o a tutte le persone che mi aiutano a fare questo programma. E voglio subito ringraziare Matteo e Daniele, che da sempre mi aiuta con le macchine, e i nostri ospiti che verranno nelle puntate a seguire. Ve lo presentiamo, vi leggiamo qualche brano in modo che possiate farvi un'idea di come gli autori scrivono, di che temi trattano, eccetera, e cerchiamo di parlarne un po' diffusamente. Poi la scelta se leggerlo, se dargli una chance o meno, si riserva a voi. Come si diceva, andremo in onda d'ora in poi tutte le settimane con cadenza regolare su i 102.2 di Radio San Donà. Vi ricordo subito, fin da ora, che abbiamo anche un blog. Questo blog si chiama bloverbooking.wordpress.com. Bloverbooking perché è una simpatica contrazione di blog più overbooking. In sostanza, overbooking.wordpress.com era già stato preso, ci siamo fatti bloverbooking. Bloverbooking scritto B-L-O-V-E-R-Booking, con due O. Vado subito a presentarvi il libro di cui parliamo questa sera. Il libro che abbiamo scelto per questa prima puntata È una scelta un po' random, ma si chiama Educazione di una canaglia ed è stato scritto da Edward Bunker. Chi è Edward Bunker? Edward Bunker, magari l'avete anche visto, se avete visto il film Le Iene, aveva una piccola parte, faceva Mr. Blue. Edward Bunker è uno scrittore americano nato nel 1933 e scomparso nel 2005. Ha scritto una serie di libri, tra cui ricordiamo Cane mangia cane, Animal Factory e Little Boy Blue. E si tratta più che altro di romanzi, e sono romanzi autobiografici. Poi andrò a dire un po' di più su di lui e sulla sua vita. E che cosa contraddistingue la vita di Edward Bunker? Edward Bunker ha il quoziente intellettivo di un genio, ma fin dalla più tenera età passa la vita entrando ed uscendo dal carcere. E in questa Educazione di una canaglia lui fa una specie di sua autobiografia, raccontando con uno stile molto secco e molto essenziale e molto diretto, che colpisce secondo me, qual è stata la sua vita, quali sono state le sue conoscenze e le esperienze che ha fatto in questa sua esistenza fino al momento in cui appunto si è trovato a scrivere questo Educazione di una canaglia. Prima di iniziare a parlare diffusamente di questo libro, io andrei a proporvi un primo intermezzo musicale che un po', secondo me, può aiutare a farci entrare in quello che è il clima che io almeno penso di aver respirato nel momento in cui ho letto questo libro. Quindi andiamo subito a sentire Tom Waits, e questa è Downtown Train. Outside another yellow moon, it's pouring so old in the night time. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. Just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Run on downtown train. Every night is just the same. Thank you. 102.2 di Radio San Donà, Daniele punta il dito, quindi è ora di riprendere. Vi ricordo i contatti per intervenire in trasmissione. Potete farlo innanzitutto chiamando lo 0421 560993 o mandandoci un fax al 560994, sempre preceduto dallo 0421. Altrimenti potete mandarci un'email a radio@radiosandona.it. Stavamo sentendo Tom Waits, una canzone tratta da Rain Dogs, penso uno, credo il miglior lavoro di Tom Waits, e ci faceva, secondo me, un po' entrare in più, un po' di più in quello che è lo spirito di questo Confessioni di Educazione di una canaglia, appunto, di Edward Bunker. Allora, chi è? Ritorniamo a parlare di Edward Bunker. Si tratta appunto di un romanzo autobiografico. Edward Bunker, dal mio punto di vista, è un po' un romantico, ossia lui ci racconta un po' la sua scalata verso quello che era il suo sogno nel cassetto. In sostanza, lui fin da bambino ambisce a una sua vita legata al mondo della scrittura, e cerca di perseguire questo suo sogno tenendo conto di quelli che sono i suoi mezzi, ossia assolutamente nessuno. In sostanza, Edward Bunker fin da bambino è affascinato dal cinema, va molto spesso va molto spesso a vedere degli spettacoli marinando la scuola, oppure fuggendo dai vari riformatori in cui è rinchiuso, e dopodiché si innamora della lettura e gli capita di leggere moltissimo e di scrivere moltissimo nei periodi che passa in carcere. A fronte di questa vita in cui appunto lui cerca di imporsi come scrittore, la fortuna non gli è avversa, la fortuna gli è avversa, e purtroppo gli capita. E lui ce lo racconta anche con una sua etica, con un suo, cosciente di quello che gli è capitato di fare durante la sua vita, gli capita abbastanza spesso, direi, di finire in carcere. È il più giovane detenuto di San Quintino quando gli capita di entrarci, e sconta all'incirca 17-18 anni di pena lì, si fa degli amici e ne esce, e continua a scrivere, continua a leggere, e poi vedremo come andrà avanti. Dalla voce di Alice vorrei farvi leggere quello che è l'incipit del libro, ossia il primo paragrafo. Il primo capitolo si intitola Né cielo né inferno, e ci racconta appunto l'infanzia e l'adolescenza del giovane Edward Bunker. Nel marzo del 1933, la California del Sud all'improvviso prese a ballare al ritmo di un rock and roll che risuonava dal ventre della terra. I soprammobili danzarono sulle mensole dei caminetti prima di schiantarsi a terra. Le finestre andarono in frantumi e precipitarono a cascata sui marciapiedi. Le case di canniccio intonacato scricchiolarono accartocciandosi, prima su un lato e poi sull'altro, come scatole di fiammiferi. Gli edifici di mattoni restarono in piedi finché non furono sopraffatti dalle vibrazioni, e poi rovinarono il suolo sparendo in cumuli di calcinacci e nuvole di polvere. Il Long Beach Chiving Auditorium crollò e in molti restarono uccisi. In seguito mi raccontarono che ero stato concepito nel momento preciso in cui la terra aveva tremato, e quando ero venuto al mondo, alla vigilia del Capodanno 1933, all'ospedale Cedars of Lebanon di Hollywood, Los Angeles era sommersa da un diluvio torrenziale, gli alberi di palme e le case fluttuanti nella fiumana dei canyon. All'età di 5 anni sentii mia madre affermare che il terremoto e il nubifragio erano cattivi presagi, poiché fin dall'inizio avevo creato problemi, a cominciare dalle coliche. A 2 anni sparii durante un picnic di famiglia a Griffith Park. 200 uomini setacciarono la boscaglia per metà della nottata. A 3 anni, non so come, riuscii a demolire l'inceneritore di un vicino, piazzato nel cortile sul retro della sua casa, servendomi di un martello a granchio. A 4 anni svaligiai il furgone frigorifero Good Humor di un altro vicino di casa e offrii il gelato a un branco di cani del quartiere. Una settimana dopo provai a essere di aiuto ripulendo il cortile della casa e appiccai il fuoco a un mucchio di foglie di eucalipto ammassate accanto al garage del vicino. Ben presto l'incendio illuminò la notte e le sirene dei pompieri lacerarono l'aria. Soltanto una parete del garage restò annerita dalle fiamme. Questo appunto era dalla voce di Alice, che ringrazio e che ci accompagnerà anche nelle successive puntate, l'incipit del libro appunto Educazione di una canaglia di Edward Bunker. Ora, la cosa che a me, quando io ho letto questa prima pagina, la cosa che mi ha subito colpito è: ma farà sul serio? Ci sta raccontando una serie di frottole? Ossia, sta molto montando quello che ci racconta? Oppure è sufficientemente sincero? Beh, la cosa che a me colpisce all'interno poi del libro, e cercherò ora di ricollegarla appunto a questo incipit, è la straordinaria franchezza che traspare dal modo di scrivere di Bunker. Ossia, le cose come vengono spiegate nel libro in effetti ti sembrano molto sincere e molto reali. Ad esempio, io ero molto scettico nel momento in cui ho iniziato a leggere questo libro, quando capita più spesso, soprattutto nei primi capitoli, quando diceva sì, ero in carcere, però passavo più di magari 12 ore di fila a leggere libri, passavo la notte immerso in un romanzo, eccetera eccetera. In realtà parla dei libri che leggeva, parla dei romanzi a cui si affacciava, eccetera, con la stessa competenza in cui magari due pagine dopo è in grado di spiegare come nel carcere di San Quintino si riusciva a fare la birra all'interno di un estintore. E quello che più mi colpisce è che dal libro traspare il fatto che il suo amore per il leggere, il suo amore per lo scrivere, alla fine in un certo senso trionfi. È molto romantico da questo punto di vista. E io personalmente l'ho guardato sempre con un occhio un po' critico questo punto del libro. Poi più di recente mi è capitato di leggere un altro testo di un ex tossicodipendente, Lee Stringer, che recentemente ha pubblicato un libro che si chiama Inverno alla Grand Central, e questo è stato un consumatore di crack fino a quando si è accorto che scrivere era una droga più grande. E questo a me ha colpito un po', e in qualche modo mi ha aiutato a riconciliarmi con quello che era stato il mio primo approccio a Edward Bunker. Bene, prima di continuare a leggere, sempre tramite la voce di Alice, che ringrazio ancora, un altro pezzo del libro, passiamo a un altro intermezzo musicale, e questa è, e mai titolo fu più appropriato, Between the Bars. Could do, you won't, but you might. The potential you'll be, you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about pressure. things you forgot. Radio San Donà, ben ritrovati in questa serata in compagnia di Overbooking. Vi ricordo ancora una volta i contatti per intervenire in trasmissione, tramite telefono allo 0421 560993 o tramite email scrivendo a radio@radiosandona.it. Vi ricordo di nuovo che questo programma ha una pagina in WordPress, un blog, quindi il blog si chiama bloverbooking.wordpress.com. Allora, stiamo parlando questa sera di un libro scritto da Edward Bunker, un'autobiografia che si chiama Educazione di una canaglia, in cui Edward Bunker ci narra quella che è stata la sua vita. Edward Bunker, ricordiamo, tra l'altro era uno degli scrittori preferiti da Quentin Tarantino, e Quentin Tarantino dice di Little Boy Blue, che è un altro romanzo scritto da Edward Bunker, che si tratta di probabilmente il miglior noir che lui abbia letto nella sua vita. Tarantino lo ama così tanto che, come anticipavo in precedenza nel programma, lo vuole a tutti i costi in un suo film, e disegna una parte assolutamente fatta apposta per lui nelle Iene. E infatti, appunto, Edward Bunker nelle Iene ha un piccolo cameo, e è Mr. Blue, per cui chi avesse visto le Iene avrà visto Edward Bunker quasi sicuramente. Continuando con quella che è la storia di Edward Bunker, appunto, dicevamo prima, molti suoi libri sono tratti da sue esperienze di vita carceraria, in sostanza. Quindi lui è molto prodigo di insegnamenti, se vogliamo, su quella che è l'etica dell'essere in carcere, l'etica dello gestire i rapporti con il compagno di cella piuttosto che con il secondino. Ha un codice del rispetto che in qualche modo è, in un certo senso, un po' romantico. C'è una bella parte in cui Edward Bunker si rifà a quello che è il gergo degli scassinatori a New York nei primi anni 50. Bellissimo, fa pensare in un certo senso a Jack London e a Il ladro gentiluomo nell'Ottocento, in sostanza. Poi Bunker prende anche coscienza che anche il mondo della criminalità cambia, anche l'etica viene a mancare, cambiano un po' le cose, in sostanza. Quello che a me colpisce nella parte centrale del libro è, in sostanza, che Bunker si rende conto ad un certo punto che ha in sostanza due vite, una che è una dentro al carcere e una al di fuori. Ognuno ha le sue regole, ognuno ha le sue norme, ognuno ha le sue amicizie, e lui passa disinvoltamente, come cambiare un vestito, da una vita ad un'altra, da un insieme di rapporti sociali ad un altro, e ha in un certo senso ha due maschere. Quello che poi l'autore è bravo a far risaltare è creare un profilo di amicizie e di esperienze che lui può descrivere e può dire di aver fatto con i compagni, gli amici che si è creato in carcere e gli amici che si è creato fuori dal carcere. In entrambi i casi lui aiuta e viene aiutato da queste persone, ossia è forte, secondo me, il valore della sincerità e anche, in un certo senso, diciamo, la fiducia che Edward Bunker ripone nelle persone di cui si fida. E una cosa che mi piaceva farvi sentire era una parte in cui lui descrive un amico che si era fatto in carcere, Leon, e si tratta di un uomo nero, e questo non era abbastanza peculiare nell'America dei primi 50. Lo conosce a San Quintino, e adesso dalla voce di Alice sentiamo come lo caratterizza. Poi c'era Leon Goldney. In vita mia ho avuto un numero insolito di amici intimi. Gli uomini americani hanno raramente amicizie intime dello stesso sesso, quelli che possono chiamarsi fratelli. Io ne ho avuto almeno una dozzina, o forse due, e decine che ho considerato compagni. Leon apparteneva alla mezza dozzina di amici che hanno contato di più, e per un certo tempo è stato il mio migliore amico. Non mi ricordo più delle circostanze del nostro primo incontro. Durante il primo anno della mia detenzione a San Quentin, ero troppo preoccupato della mia immagine per avere un nero come regolare compagno. Avevo parecchi amici di colore, ragazzi che conoscevo dal carcere minorile passando per l'istituto correzionale e che ora erano a San Quentin, ma non erano regolari compagni. In cortile non mi facevo vedere insieme a loro. Ormai, però, avevo acquisito riconoscimento e prestigio sufficienti, nonostante avessi appena 21 anni, perché nessuno pensasse male o, in tal caso, trovasse nulla da ridire. Inoltre, per mio tramite, Leon aveva stretto legami di amicizia e si era guadagnato il rispetto di numerosi detenuti bianchi che esercitavano una certa influenza. Jimmy Posten aveva fatto ottenere a Leon un posto nell'ambulatorio dentistico. Il dentista capo non firmava nessun cambiamento nell'assegnazione dei lavori senza la preventiva approvazione di Jimmy. Leon era l'unico detenuto nero a lavorare lì. Non era una questione di razzismo. Il motivo era che i posti buoni si offrivano ai buoni amici. E questa è la caratterizzazione appunto di Leon dalla voce, dallo scritto di Edward Bunker. Questo è l'amico che poi accompagnerà lo scrittore in tutta, più o meno in tutta la sua detenzione a San Quintino. C'è una parte molto, molto bella in cui lui racconta un suo incontro di pugilato in cui viene sconfitto, e Leon gli rimane fedele come sparring partner fino alla fine, lo raccoglie i pezzi in sostanza quando questo viene definitivamente battuto. Bene, prima di proseguire ed andare a concludere con la lettura e il commento di Educazione di una canaglia, un terzo stacco musicale, e questa volta affidato a Perry Como. At the end of the rainbow there's happiness, and to find it how often I've tried. But my life is a race, just a wild goose chase, and my dreams have all been denied. Why have I always been a failure? What can the reason be? I wonder if the world's to blame. I wonder if it could be me. Some fellas always look and find the sunshine. I always look and find the rain. Some fellas make a winning sometime. I never even make a game. Believe me, I'm always chasing rainbows, waiting to find a little bluebird. Ed eccoci ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà, accompagnati da Perry Cuomo. Questa era I'm Always Chasing Rainbows e andiamo a concludere il nostro commento, o almeno il nostro tentativo di commento, a quello che è Educazione di una canaglia, il libro scritto da Edward Bunker. Educazione di una canaglia, fra l'altro, vi volevo solo ricordare che è stato tradotto in italiano e pubblicato per Einaudi, e ce ne sono due edizioni, una del 2002, un'altra del 2008, è una riedizione in sostanza, quindi, quindi una delle due va bene. Cosa dire? Edward Bunker, appunto, come dopo questa vita in sostanza difficile, nell'ultimo capitolo ci riserva forse quello che in un certo senso in un'autobiografia potremmo definire un lieto fine, ossia è molto romantico. Nell'ultimo capitolo, romantico nel senso di romanticismo ottocentesco in un certo senso, nel senso che nell'ultimo capitolo si guarda indietro e con estrema razionalità, come gli è proprio in tutto il libro, fa una specie di bilancio di quello che ha fatto nella sua vita e dice: beh, non posso rinnegare niente, non ho particolari rimpianti, sono stato in un certo senso costretto a fare quello che ho fatto e sono stato coerente con me stesso. Poi in un certo senso sono stato anche fortunato, perché quello che era il mio obiettivo in un certo senso l'ho raggiunto. Ossia, quello che si capisce ad un certo punto è che Bunker smette di rubare o comunque di fare degli atti criminali nel momento in cui ha un'altra fonte di sostentamento, e quest'altra fonte di sostentamento gli è appunto data dallo scrivere. Edward Bunker si sposerà, ossia sposerà il suo avvocato, perché in effetti è sempre meglio lasciare le cose in famiglia, e le ultime sue note, l'excipit di questo libro è dedicato al figlio. Andiamo ora a leggerlo con l'aiuto di Alice. Mi aspettavo che la nostra strana storia d'amore durasse un anno, forse due, prima che l'incanto della novità svanisse per lei o che in me prevalesse la noia. Non è successo, e dopo due decenni pare assai probabile che saremo ancora insieme fino al momento della mia morte, cosa anche ancora meno probabile dal mio punto di vista all'età di 65 anni è essere padre di un bambino di 5 anni. Bello, estremamente intelligente ed esuberante, il mio orgoglio e la mia gioia. Chissà che penserà di suo padre. Ma le carte che gli abbiamo offerto sono infinitamente migliori di quelle che il destino ha dato in mano a me. Avrei potuto giocare meglio le mie, senza dubbio, e ci sono cose di cui mi vergogno, ma quando mi guardo allo specchio sono fiero di quello che sono. I tratti del mio carattere che mi hanno fatto combattere il mondo sono gli stessi che mi hanno permesso di farmi valere. E così si conclude Educazione di una canaglia. Questo era l'excipit, ossia l'ultimo paragrafo del libro di Edward Bunker, libro, come appunto dicevo, autobiografico. E se posso lasciarvi con un invito alla lettura, sì, vi suggerisco caldamente di leggere questo libro, perché accanto ad una serie di indicazioni pratiche su come si svolge un'attività criminale tipo il furto, la rapina, eccetera eccetera, in cui Bunker è assolutamente competente, però si trova anche una storia raccontata molto semplicemente, come dicevo, con uno stile molto diretto, però che all'interno ha una grande umanità e seppur in un certo senso macchiata di un qualcosa che per il lettore comune magari può essere distante, come la vita carceraria e come appunto l'attività criminale, eccetera, fa trasparire quello che alla fine è in un certo senso il fiorire di un uomo, ossia la formazione di un carattere, la formazione di un'etica e appunto il passaggio tra diciamo infanzia a diciamo prima giovinezza a maturità, seguendo una certa coerenza e una certa consistenza nelle scelte di vita. Questo era la nostra lettura di questa sera. Vi anticipo già che la prossima settimana avremo ospite, e io ne vado fiero perché è un amico di tutti noi qui di Overbooking. Avremo ospite Ferdinando Morgana, che al momento è impegnato alla scuola Holden, che è una scuola di letteratura in sostanza e di scrittura tenuta a Torino e gestita diciamo e il cui preside è Barrico, e gli abbiamo chiesto se avesse avuto voglia di presentarci due libri a sua scelta e di discuterli, di raccontarli con noi. Ha detto di sì e ora staremo a vedere come potrà andare. Io innanzitutto voglio ringraziarvi per questo spazio e per averci ascoltato in questi primi 40 minuti di programmazione. Un ringraziamento particolare va ad Alice per aver, e questo è il terzo tra l'altro, Alice, sentiti fiera, per aver letto con una voce molto più brillante della mia le parti di scritto di questo Educazione di una canaglia. Un ringraziamento va a Matteo, senza del quale il programma e soprattutto il blog, che è bloverbooking.wordpress.com, assolutamente non esisterebbe. E un ringraziamento sempre e comunque al compagno di tante battaglie, ossia Lele, che mi aiuta alle macchine da ormai vita natural durante. Io vi rimando alla settimana prossima con una nuova puntata di Overbooking. Vi saluto e vi ricordo di rimanere sintonizzati sui 102.2 di Radio Sandonà, perché c'è una programmazione anche molto più seria rispetto a questo programma qui. Saluti a tutti, alla prossima, e vi saluta anche Frank Sinatra. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Later, she smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil.